We'll be right back.

Mi piace questo progetto Denartra Radio de Roma. Si dice così. Si dice così. Ragazzi, siamo partiti. Ragazzi, siamo partiti. Tidi, tidi. Bella regà. Bella regà. Ciao a tutti, ragazzi. Buonasera a tutti. Dinartra Radio Roma. Che emozione. Sono qui pronto per lanciare nuovi pezzi. Pronto per darvi un altro po' di roba. Perché noi non siamo de pelastica. Dinartra Radio Roma.